pazienza, è arrivata la fine. Ho intenzione di fare una terra diversa, questa gente perversa sarà invasa. Stai per dire, lo farò.